Shumegu, shumegu, come se di lele, le prego, già fasse qualcosa per me. Shumegu, shumegu, come se di lele, le prego, già fasse qualcosa per me. Shame dig. Mica un problema, a me non me caga nessun. Mi dispiace, avanti in altro. Mica un problema, mica in mezzo dei dubbi, ma foscia nu. Shumegu, shumegu, come segno di le, ve prego, scia fasse qualcosa per me. Scia me dig. Mica un problema, de volte me capita che non me ricordo c'è un belin. Ah, ben, da quante tempo? Da quante tempo che cose? Mica un problema, ogni volta che bevo caffè, me fa mai ne giù. Scia la provo, a leva un chigiari. Shumegu, shumegu, come segno di le, ve prego, scia fasse qualcosa per me. E scia me dighe. Mica un problema, le due giorni che mi go scagasso. Scia la provo con limon. Sci, funziona, ma quando mi levo ricomincio a cagà. Scignua, come se trova qua spirale. Ben, mi son turna graia, ma te si sa e manco sull'umbra. Shumegu, shumegu, come segno di le, ve prego, scia fasse qualcosa per me. Signua, mi goi una bellissima notizia da daghe. Prego, signorina. Signorina, mi goi una bruttissima notizia da daghe. Mico un problema, mico una bala più grande dell'altra. E scia me fa se vede. E nu, mi me vergogno, tutti me rian a prevo. E nu a fa su vede c'è nessun. Ma mi sul nego, scia non se preoccupe. Che mi non rio mai de disgrazie di me pazienti. Tutti me dicono così e poi rian come matti. Ma mi sul in mego che prometto che non rio. C'ha la spetaria e cale l'altra. Shumegu, shumegu, come segno di le, ve prego, scia fasse qualcosa per me. E scia me dighe. Mica un problema, ve sei a oculo, na puntina da disegno, che cose devo fa? Niente, non che capita niente. Mammi, ma sento quinta cua, ne spellin sega. Che lo sa dito? Non che capiti a niente, scia pensa che una volta mio gullo in appuntina du gia dischi. E non è successo niente, e non è successo niente, e non è successo niente, e non è successo niente. Shumegu, shumegu, come segno di le, ve prego, scia fasse qualcosa per me. Sciame dighe!